10. Attento 10. Ruscelli. Che è me? Sì, buonasera. E me a tu. Beh, allora. Hai cambiato qualcosa? Che? Sono andato l'antenna o è aumentato qualcosa? Ma è forte, ti sta arrivando. È più forte di ieri, sì, c'è 9 più 15. Beh, io l'ho fatto ieri il lavoro, sono levato l'antenna. E che antenna hai messo, Antu? Che preghiccia, me. Sì, ma che marca è, non ho capito. No, sono 27, della Midland. Sta arrivando forte, ma se non sei mai arrivato così forte. E i segnali come sono? Hanno migliorato anche la ricezione? Beh, già ho detto, io ho visto 9 più, tocca sul più, tocca. Tocca su, non ho capito. Più del più 30 tocca quasi. Mi arrivi contro, quanto Claudio mi arrivi qua. Ehia, chi stai con l'ecco che sei fissato, tu pure tu ti hanno la malattia dell'ecco. Vabbè, me ne gioco dimenticato, ho lasciato il pulsante acceso. Così esci perfetto, cazzo, che ha bisogno di chi ti ecco, bu. E già è bellino un pochettino, dai. No, ma allora, io sempre ho il solito discorso, io non critico, però se stiamo parlando in città tranquilli, cosa di una futi dell'ecco? Perché uno dice devo fare collegamenti, mi devono sentire lontano, ma siamo qua, i segnali sono furti, per cui non è che necessità, è come che tu c'hai una bella voce e ti muovi un tappo davanti per non parlare, perché tu ti rovina anche la voce. Vabbè, c'è quello che piace, c'è quello che non piace. Sì, no, sicuramente poi ognuno fa quello che vuole, mica sa a me dirlo. Però io sono di quelli che a me piace sempre la radio, bella, pulita, naturale, come sei in realtà. Questa è la voce tua, come sei dal vivo, come ti conosco dal vivo. Cappa. Minimo, l'ho alzata quasi un metro in più, meno, è poco, no? Ma hai guadagnato tanto. A che piano sei? Al secondo piano, però sono sul tetto io, capito? Ma sei vicino a coso? A Rubloffetta, a Gianni Rubloffetta? Sì, dai, diciamo di sì. Quindi le antenne, quando caccia uno, bisogna stare attenti. Non lo so, no, magari lui arriva più forte di me. No, ma dico, siete vicini, proprio la vedi l'antenna sua? Non lo so, non lo so. Può essere, dov'è? Corso Vico? Corso Vico, lui è di fronte alla stazione. Ma io praticamente questa antenna ce l'ho sul tetto, ce l'ho, capito? Esci a vedere, cazzo, non si muove nemmeno il lago delle stazionarie. Meglio così, dimmi una cosa, palo quanto ne hai? Ho capito, capo? No, palo, quanto è lungo? Non lo so, è un po' più basso di me, sarà 1,40 m, no, 1,60 m sarà. E più c'è la lunghezza dell'antenna, l'antenna quanti metri è? Un metro? Un metro, ma già va bene già. E cacchio, allora stai andando alla grande, se c'è un'antenna di un metro, io pensavo ci avessi un'antenna di 4 metri. Guardatela, la torno 27, com'è fatta, lo sai. La torno 27, no, non l'avevo capito, e cacchio, qui se sono piccolina, quelle tipo grondaia che le metti su terrazzi. L'arruccio di coboro, me. Figurati se ti metto un'antenna a serie, allora, sta già arrivando a 9,15 così. Ma questa antenna a me mi ha sempre funzionato, anche a latte dolce. Vabbè, mi devo accontentare, cosa posso, cioè non aggiudi nada. Appena che ho i soldi faccio piazzare un'antenna potente, faccio piazzare una 5 tappe. No, ma non sto dicendo quello, dico, considerando che c'è un'antenna piccola, stai arrivando alla grande, io pensavo fosse un'antenna molto più grande. Cosa cazzo, 1 metro è alta. Va bene, dimmi un po', ma tu sei andato adesso, se c'era qualcuno prima. Come? Me stai dicendo? E allora, ho detto, se sei entrato adesso, se c'era qualcuno prima. No, non c'era nessuno, era acceso, non c'era nessuno. Ma sai che mi stanno chiamando giù, ti prendo fra un po', ok? Ok, dai. Attenzione 10, c'è qualcuno su 10? Vabbè. Dimmi. Sì, ci sei ancora, sì. Eia. C'era le melanzane nel forno. E non le melanzane in forno? E no. E sto coprendo la tassareggia, quasi per il simbolo. Ti tipo come si fanno nella braccia. No, a me le melanzane piacciono tutti i moodi, sia al rosso che con la besciamella al coso, la parmigiana, e tutti i moodi che me le fai a fettine, fritte, quante di piace. E mi avvantaggio tutti in porro, piano piano cucineggiani. No, io mi ho messo la pizza, mi faccio la pizza dopo. E scappa. No, noi invece le hanno regalate, perché buttarle via, o no? Non si buttava niente, roba da mangiare. Ah, lui le rompe nel coglione perché non li voleva. Bumba, ha detto ascoltali a me, gli ho detto. L'ho guardato, non c'erano semi dentro. Ha detto dalle a me, dalle, se me li mangio io, me li porto a casa. 10 minuti da mezzo. Eia. E come la zona di lì? No, no, ti ha voluto avere, tanto. Ogni tanto la si cosa, ma. Perché l'altro giorno ho visto un video, vabbè non proprio lì, alla fine di Corso Vittorio Emanuele, vicino a Piazza Sant'Antonio, una mezzarrissa di quelli nigeriani, cosa erano, buh. Sare chi tu? Dove? Sento, ma, ho sentito. No, non sento nessuno. Tu, qualcuno mi stava sblatterando, devo essere. E Babbo Duglio, la radio ancora ce l'ha? No, ha tolto tutto. A lui non interessa, io a casa mia me la porto, me ne ha fatto un cazzo. Se non me ne frega niente, dai. Abbandonato quindi, c'ha una bella radio tuo babbo. Sì, ci ha venduto tutto, ci ha venduto. E vabbè, se non ti servono cosa te ne vai, poi si rovina. Ma le radio poi le ho sempre utilizzate io. E vabbè, un periodo lo c'entrava anche lui. Come era nominato tipo Pierpaolo, ricordami? Sì, quella 1. Quella 1, non me lo ricordavo. Quando sono entrato io all'inizio, nei primi anni già c'era, già lo sentivo spesso. Sì. Oh, do lavoro do Bagussi. Bagussi non c'è problema. Oh, una cosa hai guadagnata, almeno non c'hai più quei disturbatori che c'avevi prima, no? Sì, non c'ho più quei rompipalle, da qua. Qua mi fa niente. Mi fa nulla, a me. Ehi, allora, brutto, quando c'è così a Natalino. Oh, Natalino non l'ho più sentito. Tu più sentito, là? Non fa bene Natalino. Di nuovo, cazzo, ci era fatto male, era venuto in officina tempo fa, prima delle ferie, verso luglio, dai, era passato, e poi non l'ho più sentito. Vabbè, non sta di bene, non sta di bene, è a posta di punture, è a posta di un sacco di cose. Mi dispiace, dai, deve stare un po' più attento, anche lui le arrabbiature, se la bigliava troppo, poi c'erano quelli vicini, un sacco di telefonate, gli statene tranquillo, che la salute non si comanda. E Riccardino non si è sentito. Cattroia, oia! Cazzo di poco non ci scendo dalle scale, rispondendoti. Stai attento, non devo andare a funerale di nessuno. Perché la camera da letto ce l'ho adesso, capito? Ah, sei su due livelli a casa tua. Appa. E più c'è il terrazzino sopra dove mettere l'antenna? No, praticamente c'ho la finestrella. Quindi puoi salire sul tetto tu? C'è un grido io. Ma vuol dire, la finestrella c'è dentro casa? Sì, ce l'ho sotto il tetto, ce l'ho. Adesso mi sono fatto male. Stavo andando a controllare le melanzane nel forno. E sono scivolato salendo qua. Andare a risponderti, vabbè, dai. Sono cose che succedono. Stai attento, mi raccomando. Ok, quindi no, non c'è nessuno sopra il tuo tetto, puoi salire quando vuoi. Sì, ci sono altre famiglie. Ma da qua io metto una scala e sto salendo. Però voglio farci salire gente tranquilla, ma se mai mi faccia che cosa. Stai attento. Capito? E io qua, apro la finestrella, mi metto la sedia e sono sul tetto. Ho capito. Sì, allora praticamente ho fatto due buchi, ci sono due condizionatori, ci sono. La cosa io, l'antenna, il palo l'ho appoggiato lì, l'ho attaccato lì dove c'è la tappa dei condizionatori, chi si arregge un verme. Poi se il palo è piccolo, mi ha detto, l'antenna non è grande, per cui non c'è bisogno di mettere né tirante né niente. Certo, se ho un antenna manna, posso attaccare anche d'uno, la faccio mettere al centro tetto, allora si ciampa la musica. Sì, ma già stai arrivando bene così, non ti preoccupare, Cosa volevo dire? Claudio l'ho sentito ieri di sfuggita, non ho più sentito tutti gli altri, vabbè che io sono entrato da poco, era un sacco di mesi che non stavo entrando, Doppio Rum l'avevo sentito di sfuggita l'altra volta, però tutti gli altri, Marco, Condor, Coso, Kawasaki, che fine hanno fatto? No, già entrano, già. Non parlare, manda solo portante. Ah, Maria che c'avevi, l'alfabeto mosso, sentivo bi bi bi bi bi. Cazzo di cibatte. Zero di stazionario, bella mossa. Cazzo BBAE, ma questa cosa è più. Chi è? Avanti. Niente cazzo, dove si fatto i baracchino, manco si muove, cazzo. Bella mossa, cazzo. Hola, hola.